Ciao, io sono Laura Voltolina e questa newsletter è Una storia di fantasmi, o forse no. Per cacciare un fantasma, bisogna prima accorgersi di averne uno in casa. Magari qualche oggetto sparisce, per poi riapparire esattamente lì dove avevi appena controllato. Oppure succedono altre cose strane, troppo strane. E a dispetto del tuo scetticismo, della tua razionalità e di tutto il materialismo scientifico della storia umana, dentro di te sorge la certezza indubitabile di avere un fantasma in casa. E quando sei proprio sicura, sicuro, di avere la casa infestata dagli spiriti, che fai? Usi le informazioni che possiedi già. Che ne so, accendi una candela o l'incenso, vivi abbracciata, abbracciato allo smug di salvia bianca e al bastoncino di palo santo, reciti i tuoi mantra o il rosario, spargi tanto sale grosso che manco a Cartagine dopo le guerre puniche. E infatti i fantasmi che avevi in casa svaniscono e tu sei di nuovo tranquilla, tranquillo. Dopo qualche tempo ti sparisce un altro oggetto o capita qualcos'altro di strano davvero. Tu pensi che forse è rimasto uno spirito in qualche angolo e quindi riparti con tutto l'armamentario per scacciarlo. Stavolta, però, per sicurezza, fai anche un giro su Google e aggiungi acqua energizzata alla luna piena di Lourdes e invocazioni dei pigmei amazzonici. Magari cambi la posizione del letto. Di nuovo funziona. Per un po'. Quando ti accorgi che c'è ancora uno spirito in casa, uno particolarmente tenace, è evidente, allora chiedi aiuto. Alla tua amica che anni fa ti ha raccontato che è successo anche a sua cognata. Al conoscente di un'amica che ripulisce gli spazi infestati di professione. Alla tua amica o al tuo amico sensitivo. E stavolta scopri come si fa davvero a scacciare un fantasma. Scopri il segreto, il trucco, la soluzione. Che non è scacciare il fantasma, è l'opposto. È mostrare allo spirito una luce e accorgersi che lo spirito anelava a quella luce, ad essere visto e non scacciato, per seguire la luce e andarsene in santa pace. E per farlo, guarda un po', non ti serve nemmeno avere la casa infestata dagli spiriti. E se il fantasma ostinato fosse la tua parte ombra, quella nascosta che magari non sai nemmeno di avere o di cui hai paura o di cui ti vergogni perché ti è stato insegnato così? E se la casa fossi tu nella tua interezza? E se scoprissi che la tua ombra ti rende la vita quotidiana più difficile e ti indebolisce? E se scoprissi come riconoscerla, vederla, come abbracciarla e accoglierla? Come illuminarla e alla luce trovassi il dono prezioso che ha per te. Un tuo talento nascosto, una tua splendida capacità, una nuova energia a disposizione perché non la utilizzi più per costringere l'ombra a starti lontana, cosa che oltretutto era impossibile. Tutto questo si può fare insieme. I doni dell'ombra è il percorso Yoga e Mitologia online di febbraio. Puoi partecipare in due modi. In diretta, tutti i giovedì di febbraio, dalle 19.30 alle 21. Quando vuoi tu, con le registrazioni che saranno a disposizione dei partecipanti per tutto il mese. Scrivimi per partecipare! Lunedì scorso è stato il lunedì più lunedì di tutti i lunedì, quello del rientro dalle festività natalizie. Lunedì prossimo, invece, è il Blue Monday, il giorno più triste dell'anno, secondo le opinabili statistiche che la rete ci propina. Come lo vivi tu, il lunedì? Per me è un giorno speciale di programmazione e apertura. Per questo il percorso Yoga del Potere, Intenzione e Azione è in diretta proprio tutti i lunedì sera. Ma chi non riesce a partecipare alle dirette può recuperarsi la registrazione in qualsiasi altro momento della settimana. Vuoi anche tu prenderci per mano e imparare ad abbracciarlo il lunedì anziché subirlo? Rispondi a questa mail scrivendomi Blue Monday non te temo e ti manderò tutte le info. Le parole che ho scelto per noi oggi sono di Patrizia Cavalli, dalla sua raccolta Pigre Divinità e Pigra Sorte. L'Eden. Mi hanno mandato via? E io me lo rifaccio. E visto che ci sono, lo miglioro. Un grande abbraccio, Laura.